Mercati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Oggi finalmente si gioca, oggi dopo quasi un mese il Parma torna in campo e lo fa per difendere la dignità di uno dei club più importanti del calcio italiano, per amore e rispetto dei propri tifosi e di una città che non ha mai smesso di credere che un'alternativa alla distruzione di un sogno ancora esista. Oggi è stata una domenica normale, quasi normale. 800 24 00 24, Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Pietro Lacorte in regia, Carlo Genta qui con me. Beh, intanto vediamo i risultati, glieli diamo? Sì, diamo. Si è giocato, si è giocato questo pomeriggio. Aspetta, vediamo i risultati. Chievo-Roma 0-0, Empoli-Genoa 1-1, Parma-Atalanta 0-0, perché grande contentezza nel vedere il Parma tornare in campo. E poi 0-0, il Parma non ha perso, segno anche questo di grande dignità. Intanto saluto subito Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Ciao direttore. Buongiorno, ciao direttore. Chiudo con Udinese-Torino 3-2 alle 12.30, un altro 0-0, quello tra Cesena e Palermo. Grande dignità in questo 0-0, direttore. Sì, grande dignità, ma anche grande tristezza, sinceramente. Insomma, se uno pensa al calcio italiano e a quello che sta diventando e è diventato per una serie di motivi che hanno delle responsabilità precise, dei nomi precisi. I nomi sono quelli degli indagati e i nomi sono anche quelli della Federcalcio e della Lega, che non ha saputo dare una risposta obiettivamente importante di fronte a questo sfacelo. Quindi c'è poco da esultare, devo dire, o da in qualche modo consolarsi, perché il Parma prende in campo. Non è che sono queste le condizioni migliori per un campionato come il nostro. No, però dopo un mese diciamo che si aspettava anche una risposta, cioè noi abbiamo passato settimane a chiederci le ultime se questo campionato certamente condizionato fosse anche falsato oramai dalla presenza del Parma. Tu dici una pezza sul Parma campionato. Comunque porta via due punti all'Atalanta, dopo credo la Roma l'unica squadra, direttore, nel girone di ritorno, no? Però mi domando, ma anche per i punti che toglie via qualcuno, è sempre regolare secondo voi il campionato? Cioè una squadra che ha riposato due settimane in più, è una squadra che, insomma, per carità, io non voglio togliere nulla al Parma né dare qualcosa a qualcuno, però di sicuro non è bello vedere questo, perciò mi dico, non mi riesco a consolare, ecco, è l'unica cosa. Mi fa piacere che una squadra torni in campo e mi fa piacere per le vicende umane di giocatori, ma soprattutto dipendenti, insomma di quel gruppo di persone che chiaramente non ha una ribalta attraverso i media, ma che improvvisamente magari può trovarsi senza lavoro, e questo c'è tutto il rispetto, dopodiché non esulto per questa cosa. No, ma una cosa che sia chiara, cioè non è regolare per nessuno. Uno, cioè non a favore della Juventus, della Roma, di questo, quell'altro, perché si poi lotta con l'Atalanta. No, ma perché poi, Giovanni, tutti dicono ok, non è regolare, ma non è regolare perché la Juventus vince lo scudetto, questo che sia chiaro, no? Per tutti, ma più che non regolare, perché possiamo anche eliminare parole falsato, non è regolare. No, c'è una alterazione evidente di quello che è un regolare cammino di un campionato. Sì, questo sono d'accordo. Intanto, direttore, la Roma non c'è più, se serviva un'ulteriore conferma, a Verona contro il Chievo è arrivato, credo sia l'ottavo pareggio nelle ultime 10 partite, ecco, sì. Ma non serve nemmeno dare i numeri, credo che oggi sia bastato guardare la partita per chi l'ha vista. Beh sì, ancora una prova brutta, una prova diciamo neanche consolatoria per quanto riguarda il risultato, perché è chiaro che magari all'interno della società ci si possa aggrappare a questo. Come ha detto di recente Pallotta, come hanno detto di recente anche alcuni dirigenti, questa è una società che in qualche modo sta cercando una propria strada, un cammino, ed è comunque seconda in campionato, quindi è anche giusto non esagerare nell'infierire su queste cose. Però ecco, se una squadra e una società indicano come obiettivo lo scudetto, indicano come obiettivo un rilancio e un lancio internazionale della squadra, beh, insomma, questo è un deludente, sì. Assolutamente deludente. Poi tra l'altro da questa sera e da domani la Roma rischia davvero concretamente di doversi guardare le spalle, e non solo dal Napoli. Direttore, ti rubo un minuto perché ti faccio sentire l'inizio di Garcia ai microfoni di Sky. Questo pareggio è veramente un pareggio inquietente. È la prima volta che la sentiamo fotografare in questo modo la realtà, quindi è molto realista questo che sta dicendo. Come se ne esce fuori? Cioè come farà la Roma a ritrovare la Roma che conoscevamo? dobbiamo muoversi di più. Per dire solo questo, da domani torniamo in campo e dobbiamo fare molto meglio, soprattutto che i tre ultime partite erano veramente interessanti, con anche dei risultati interessanti e soprattutto dei momenti di gioco e di rabbia della squadra che non ho visto questa sera. Questa sera non c'è nessuno per rilevare l'altro, abbiamo giocato male soprattutto nel primo tempo, lo dico. Sì, pareggio inquietante, direttore. Prima volta, altre cose che ha detto Garcia oggi, pareggio con, con gioco prima brutto. Volta che lo sento, è la prima volta che lo sento così deciso. Sì, ma rischia, rischia. Forse, ma insomma, rischia una cosa che per due anni è secondo, insomma, io questa ipotesi la scarterei. Potrebbe andare via a fine stagione, eventualmente. Questa è un'ipotesi invece che può esistere. Però quello che mi sembra evidente è che la Roma non ha più né gamba né idee. Le idee magari possono essere quelle di Garcia, ma la gamba è quella della preparazione. I giocatori non hanno forza, sono ripetitivi nelle azioni, magari fanno le stesse azioni sulle fasce e poi si ritrovano sempre a fare quei cross che non riescono nemmeno ad arrivare al centro dell'area. Quindi c'è un qualche cosa di preparazione che è sicuramente sotto gli occhi di tutti e che magari si tende a coprire. I giocatori dicono, o perlomeno dai sussurri, dai mormori dello spogliatoio, emerge che c'è qualcosa nella preparazione che non è andato, ma non riguardante il fondo, ma riguardante la brillantezza, quindi la capacità di essere in qualche modo primi sulla palla e vitali in campo, e questo manca. Secondo me la Roma ha fatto crack il giorno in cui ne ha presi 7 dal Bayern Monaco. E quella è una questione, stiamo parlando sicuramente... però ormai di 4 mesi fa, credo. Ha fatto crack lì. Quella è una cosa psicologica che sicuramente ha inciso. Improvvisamente una squadra che si sentiva in qualche modo capace di poter far tutto è stata scaraventata in una dimensione assolutamente irreale per quello che era la sensazione interna alla stessa squadra. Quindi ha tolto delle sicurezze, togliendo delle sicurezze in un ambiente che è abituato a lacerarsi come quello romano, sicuramente all'interno dello spogliatoio, fra i giocatori, è subentrata una sorta di sensazione che il destino o altre situazioni governassero la squadra e quindi questo purtroppo ha alterato una sorta di equilibrio psicologico che è sempre molto difficile trovare in una squadra come la Roma. Ha detto saremmo potuti restare in campo 3 ore senza segnare, anche questo è un dato inquietante, 11 gol nelle ultime 12 partite, forse i problemi a Roma oltre a quelli fisici di testa, di tutto quello che vogliamo, nascono anche da questa lettura numerica, cioè la Roma è una squadra che non segna più, fa molta fatica. Direttore, io dopo la tua prima di oggi volevo coinvolgerti anche un minuto su Inzaghi, però il traffico, ti posso chiedere di aspettare un attimo? Sì, prego. Traffico. Ciao a tutti, sono Sergio Cosmi, sono orgoglioso di fare gli auguri a tutte le mamme per la festa della mamma. Ah, è la festa della donna. Ah sì. Tutti convocati. Potrebbe essere anche la tua ultima notte qui. Tu che cosa vorresti dire alla società? Perché credi di meritare, insomma, la permanenza? No, ma la società deve fare quello che crede. Io sono deluso, come lo sarà la società. Questo Inzaghi ieri sera alle 23, Inzaghi a questo momento è ancora un allenatore licenziato in attesa di comunicazione, si parlava di Tassotti, nelle ultime ore ha preso corpo invece più l'ipotesi di Cristian Brocchi, attuale allenatore della Primavera. Oggi Paolo De Paolo, direttore del Corriere dello Sport, prima pagina, Inzaghi non c'è più tempo, se l'è giocato tutto ieri sera, credi che ci possa essere una via d'uscita? In questa vicenda. Sulla nostra edizione nazionale abbiamo fatto Inzaghi senza futuro, che è, diciamo, ancora più forte come espressione, perché non solo dalle parole sue, ma da questo consulto che c'è stato nello spogliatoio alla fine di Galliani, tra Galliani e i giocatori, lo stesso allenatore, insomma, le informazioni che ci arrivano è quella appunto che ci possa essere un cambio, ma il cambio che potrebbe essere interno, che potrebbe riguardare Tassotti, che però lo accetterebbe mal volentieri, e lui proprio che non lo vorrebbe, o Brocchi, è una soluzione ovviamente temporanea e che va guardata anche con uno sguardo più ampio sulla società, su quello che sta accadendo attorno alla società, che questo è importantissimo, perché comunque c'è una volontà di cedere la società, e quindi questo porrebbe appunto dei problemi per la conduzione fino a termine della stagione. Sì, Milan che è sospeso, è sospeso non solo dal punto di vista tecnico, così come probabilmente Inzaghi non è l'unico colpevole, forse andrà aperto anche un capitolo poi sulle responsabilità di chi l'ha messo lì. Grazie direttore. Grazie. Ciao, a voi, direttore. Grazie. Grazie a Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. 800 24 00 24, c'è chi dice inquietante Garcia, che tempo fa ciarlava di scudetti e sviolinate. Poi vi faccio anche sentire Brocchi, perché oggi ha perso il derby con la Primavera. Prima però c'è Donadoni ai microfoni di Sky. Sotto Donadoni oggi. Ma è chiaro che è un po' un effetto strano, però noi lavoriamo per andare in campo la domenica, per starci via. Oggi non siamo fortunati. Segnale disturbato. Segnale disturbato, comunque Donadoni che si è portato via un pareggino. Mi fate sentire Brocchi, oggi ore 14. Direi sì a Galliani, se ti dovesse chiamare, ma a prescindere, che la speranza è quella che, come ho già detto, ci sia sempre un clima positivo. Io parto dal presupposto di volere il bene del Milan. Sono un uomo Milan che in questo momento sta facendo un lavoro molto bello, sono fiero e contento di quello che sto facendo e lavoro per questa società. Questo Brocchi, tutto che senza senso. Evidentemente accetterebbe la panchina di Inzaghi. Con quale senso, con quale significato? È chiaro che Tassotti, che è stato lì per 100 anni a fare il vice di chiunque, farebbe benissimo a non accettare. È chiaro anche che sarebbe una soluzione ponte in attesa di un futuro estremamente incerto. La sensazione è che non ci sia alcun senso nella conduzione del Milan, né quello di Inzaghi, né quello di Brocchi, né quello di Tassotti. Si tratta di capire dove finirà questa società. In questo momento non c'è chiarezza. Sì, non c'è chiarezza, e forse anche fisiologico, da quello che stiamo raccontando, da quello che stiamo vedendo, che riguarda i piani più alti. Mi piacerebbe sapere da voi a casa. 800 24 00 24. Noi siamo qui fino alle 19 e tra l'altro vi raccontiamo in diretta, perché questi sono minuti che potrebbero essere decisivi. Mi piacerebbe sapere da voi che cosa ne pensate sulla scaletta delle responsabilità del disastro del Milan, cioè dove mettete Inzaghi. Abbiamo recuperato Donadoni, proviamo. Grande volontà, e forse si meritava anche qualcosa in più sul campo, però insomma direi che è già un buon inizio, e questo è fondamentale per il proseguo. Ora vedremo gli accadimenti della settimana. Che tristezza, Ilaria. Che tristezza, mamma mia. Sì, triste. Una tristezza infinita, perché parlare di calcio, di campo, eccetera, in questa situazione è veramente triste. Sì, non c'è nessun futuro. Oggi c'erano 9.000 persone al Tardini, tra l'altro incasso già pignorato, pignorato da uno dei 1.000 creditori di questa gestione. È stato un pomeriggio surreale, però meglio questo di domenica scorsa. Luca da Padova, Luca. Ciao. Eccoci. Ciao. Allora, io ho sentito dalle partite che ascoltavo oggi per radio che sì, la Federcalcio, la Lega di Calcio hanno dovuto riammettere il Parma e finanziare il Parma fino alla fine, se no gli arrivava una multa dalle televisioni. No, una multa no, diciamo, no, che Sky e Mediaset non erano contentissime, multa, sì, e l'hanno detto. Finiti per tribunali. Proprio una multa proprio da Federcalcio, perché avevano perdevano i diritti TV. Proprio una multa, l'hanno detto proprio la parola multa. Non è così, ma cambia poco la sostanza. È evidente che la questione dei diritti TV e di quello che era stato venduto, cioè il pacchetto completo, ha avuto un peso. Poi non si tratta di multa. D'altronde non si sono svegliati prima perché erano impegnati con Da Vecchio. No, ma il discorso che fanno le TV è semplice: se io compro un etto di prosciutto e me ne danno 90 grammi, io mi arrabbio. Questo è il discorso, no? Sì, ma prima la Federcalcio non ci ha pensato prima, perché era occupata con Tardelli e e cosa, Conte che sono andato alla nazionale, perché sì, si potevano svegliare prima. Sì. Luca, in tutta sincerità, il Parma ha iniziato a giocare che Tavecchio ancora non era presidente della Federcalcio, è stato ammesso con la vecchia Federcalcio, quindi poi mettiamo in fila le responsabilità di tutti, però, sì. Però credo che Tavecchio non sia l'unico e forse non è nemmeno il primo della fila in tutta questa vicenda, che tra l'altro non è finita. Luigi da Milano, Luigi. Sì, pronto, buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Io sono tifoso milanista da 25 anni e abbonamenti circa da 23. Inzaghi lo mandiamo via. Benissimo, ma perché mandare via Pippo Inzaghi? Cioè, adesso parte tutto, siamo una società con due amministratori delegati, unico caso di governance al mondo con due D che io abbia mai sentito. Posso dire una cosa? Anche la Juventus ha due amministratori delegati comunque, ha Marotta, la parte sportiva, e Mazzia, che è quello meno conosciuto, che non va mai davanti alle telecamere per la parte amministrativa. Poi il problema è che il secondo amministratore delegato del Milan è Barbara Berlusconi. Esatto. È quello il problema. La Juventus ci sono responsabilità più divise, ci sono delle gerarchie più chiare, no? Sì. Però prego, esatto. Luigi, scusaci. No, ci mancherebbe, grazie dell'appunto sulla Juventus. E prendiamo Filippo Inzaghi a inizio stagione, lo spirito Milan, questo almeno quello che ci è stato venduto, e per carità la squadra gioca malissimo, ieri avevo i conati di vomito nel vederla giocare, però mi chiedo qual è il senso di mandarlo via. Abbiamo preso tutti in giro la Juve di Zaccheroni, noi milanisti, il targettatore. Adesso prendiamo un traghettatore per poi a settembre fare cosa? Senso, la Luca, vorrei è vero, avere, vero, vero. Un presidente che scende e dice anche ai giocatori, perché ieri la partita effettivamente l'immagine di Sky con McTess che allarga le braccia, abbiamo notato tutti allo stadio, scendere e dire ai giocatori: questo è il mio allenatore fino al 30 di giugno, poi quello che sarà lo vedremo, iniziamo a giocare da uomini e finire da uomini. Ha ragione, credo che lo si debba fare. L'ha anche detto troppo Berlusconi, non più tardi di 3 mesi fa era lì a spiegare che il Milan era la squadra migliore per rosa del 2015, caricando forse anche un fardello esagerato sulle spalle. Luigi, Giovanni, guarda che Luigi ha ragione. Sì. Luigi ha ragione, perché il comune sentire dei tifosi del Milan è questo qua, cioè non c'è niente da replicare, perché ha ragione. Comunque Inzaghi va via perché 13 punti, 11 punti nelle ultime 11 partite. Qual è la prospettiva? Significano che la stagione è volata via, la prospettiva è di arrivare a fine campionato. Alessandro dalla provincia di Milano. Ciao Carlo, ciao Giovanni. Ciao. Eccoci. Buona domenica a tutti. Anche a te. Allora, prima un incipit sul Parma, io sono tifoso juventino, volevo dire che indipendentemente dal fatto che sia in testa la Juve o no, il campionato è assolutamente vergognoso per quello che sta succedendo. E poi, riprendendo una considerazione di Carlo, penso della puntata di domenica scorsa, un personaggio come Manenti in Inghilterra, visto quello che è successo a Cellino, non l'avrebbero nemmeno fatto sedere, non gli avrebbero neanche messo la sedia sul tavolo per incominciare a parlare. Ma siamo in Italia. Esatto. E poi, se posso fare invece una considerazione sulla Juve. Però se abbassi la radio è meglio, Alessandro. Scusa, tengo il CD, tengo il computer, dai. Scusa. Considerazione sulla Juve, Alessandro. Juve in calo nei suoi uomini determinanti, e mi dispiace vedere che tutte le volte che manca Pirlo e la Juve fa una mezza partita buona si dice tanto possiamo fare a meno di Pirlo, perché invece non è così. Prima o poi Pirlo smetterà di giocare, perché ormai ha 102 anni. Prima o poi andrà anche affrontato il tema, questo è vero, è un giocatore meraviglioso, molto condizionante. Detto questo, prima o poi dovranno farsi una ragione alla Juventus, in nazionale soprattutto, e tutti quanti hanno avuto a disposizione Pirlo. Dopo ti faccio sentire Allegri, che oggi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Prima però c'è Gasperini, che sta per iniziare. Genoa, che oggi è stato fermato a Empoli 1-1, partita che il Genoa meritava di vincere, poi ha preso il gol in maniera un po' rocambolesca su un calcio d'angolo. Gasperini col pizzetto, no, passano le immagini, e allora noi andiamo in pubblicità meteo. Non c'è da fare un'analisi cercando di trovare dei capri espiatori, è l'insieme di cose che purtroppo non riusciamo a metterle nel binario giusto, a una velocità giusta. perché gli avversari si oppongono in maniera equilibrata, fanno una partita sempre difensiva, noi non riusciamo a sfondare, per la verità non soffriamo neanche tantissimo, però rimane l'equilibrio contro qualunque tipo di avversario. Tutti convocati. Come se la sta ridendo Gasperini, Carlo, col suo pizzetto, malgrado l'1-1 di Empoli, Genoa che resta nelle parti alte della classifica, sta un po' perdendo contatto da quella zona nobilissima che faceva sognare anche magari il terzo posto. Ha segnato Niang, terzo gol da quando è al Genoa. Come al solito, vengono via dal Milan e risorgono, no? Senti qua, che ne sta parlando. Tipico di una squadra come il Genoa, no? Che deve valorizzare dei giovani che magari in squadre importanti come il Milan o come squadre di primo livello non è facile. E, oltretutto il Genoa è anche una piazza ideale per preparare questi giocatori, poi a palcoscenici ancora migliori. E, quindi c'era l'attenzione, a un certo punto non pensavamo che il Milan lo desse via, poi a un certo punto del mercato, proprio gli ultimi giorni, è successo che magari, non so, è arrivato Cerci, è arrivato, adesso non mi ricordo, qualcun altro. Destro. Destro, qualcun altro. Non mi ricordo qualcun altro. Ragazzi, Cerci e Destro. E poi apriremo anche il capitolo su Cerci e Destro. A proposito di Genova, si rilanciano i ragazzi di belle speranze come Niang e anche quelli un po' più avanti negli anni, come Eto'o. Eto'o va alla conclusione! 1390 giorni dopo, l'ultimo gol in Serie A, Samuel Eto'o regala la prima gioia alla sua nuova squadra. Finché si fa quello di cui io si va d'accordo, quando non si fa non si può andare d'accordo. Lui ha capito, si è messo a disposizione, ci siamo chiariti. Eto'o, faccia Ote, siamo a posto. Siamo a posto, no? E tu? Siamo a posto, poi vediamo l'anno prossimo i conti. Ha cambiato ruolo. Ha cambiato ruolo, E tu ha cambiato ruolo. Io si è tirato dietro di qualche metro, non gioca più in trincea. Tu lo sai bene, può fare quello che vuole. Io non mi dimenticherò mai la frase che disse quel giorno con il Barcellona: se c'è da suonare la tromba, suono la tromba, se da suonare il tamburo, suono il tamburo. È un fuoriclasse, è uno che va coinvolto, è uno che va anche gestito. Secondo me tutta questa vicenda, insomma, c'è una così qualche perplessità sul ruolo di Mihajlovic e una capacità di gestire le superstar, perché se vuoi essere allenatore di una grande squadra devi saper gestire le superstar e anche le loro bizze, i loro capricci, queste cose qui, quindi poi vediamo. È chiaro che Eto'o ha questo status ed è chiaro che va gestito. Vediamo da qui alla fine, ma soprattutto su Genoa e Sampdoria, più sul Genoa che sulla Sampdoria, vediamo che succede l'anno venturo al capitolo conti. Intanto conferme che sarebbe Christian Brocchi il favorito a prendere il posto di Pippo Inzaghi, e queste sono ore, sono minuti caldissimi. Ci sono Fabio da Verona, Massimo da Udine, 800 24 00 24, perché io non sono convinto che poi Inzaghi sia il male assoluto, il responsabile di tutto. Fabio. Io su questo argomento sono la prossima domanda. Buonasera a tutti intanto. Secondo me le responsabilità di un allenatore come Inzaghi sono forse del 5%. Ventura avrebbe 3-4 punti in più, Mourinho, Ancelotti 5-6 punti in più. Secondo me il grande male del grande Milan, perché la società Milan non è in discussione, è che negli ultimi anni hanno sbagliato, tutti possono sbagliare, dal non aver venduto Pato, perché era il compagno di Barbara Berlusconi, poi hanno dovuto vendere Thiago, hanno dovuto vendere Ibrahimovic, la squadra si è distrutta, cambio generazionale, non danno il tempo ai giovani come Niang, Saponara e altri che mi sfuggono di crescere, e credono che cambiando allenatore, passando a Brocchi, cambierà qualcosa? Ferguson è stato 30 anni a Manchester, ha vinto tutti e 30 anni? No, ha fatto anni senza vincere niente, e credo che nessuno discuta Ferguson. Il problema è che non c'è un'idea, cioè non c'è un progetto. Non vogliono fare un progetto, pensano di poter vincere ogni anno subito così comprando Menez. Bene, ma secondo me non pensano neanche di poter vincere. Ma Berlusconi pensa di poter vincere non sempre. Non credo. Però secondo me, tornando alla vostra domanda, Inzaghi ha forse un 5%. Ecco, dico, ripeto, un Mourinho, un Ancelotti avrebbero 4-5 punti in più, forse qualche partita non l'avrebbero persa con l'esperienza. Ma il Milan a 35 punti o 39 cambia qualcosa? No, no, il problema è che Mourinho e Ancelotti non sarebbero mai arrivati a Milan, no, perché costano troppo. No, ma non c'è, ma non c'è il discorso, è che non c'è comunque progettualità. Certo, cioè, qual è il disegno? Va via Inzaghi, viene Brocchi, e quindi cosa cambia? Non cambia niente. Il disegno, cioè, credo, sale arrivare in fondo. Ha sbagliato tanti anni fa. Arrivare in fondo, ma dove? Ripeto, tanti anni fa, quando cambia? Si poteva dare forza ai giovani, fare un progetto che in 2-3 anni avrebbe portato a una bisogna squadra avere l'idea, bisogna, certo, avere l'idea di un progetto. Il discorso è che Berlusconi non può fare un discorso di questo tipo, cioè non può dire va bene, adesso per 5 anni non vinciamo niente, non siamo più il club più titolato al mondo, non siamo più competitivi per lo scudetto e per nient'altro. Con pazienza, poi mi dite quale grande squadra ha potuto farlo questo discorso, esatto, soprattutto in Italia, ma non solo, Fabio. Non è detto che servano cinque anni. Sì, ma è una dichiarazione di intenti, non è il discorso del tempo. Sì, ho capito, sì, è una sorta di dire ok, caliamo di livello per provare a ritornare su. Esatto, e il Milan non se lo può permettere, cioè, quindi o vanno avanti così e raccontano la favola del club più titolato al mondo, della squadra pronta a vincere il titolo mondiale, oppure cambiano Inzaghi con Brocchi, il che non alterna niente. Oppure adesso vediamo, arrivano i soldi dalla Thailandia, vediamo anche come saranno impiegati. Massimo da Udine, Massimo. Ciao, buonasera. Eccoci. A voi e ai telespettatori. Niente, l'ascoltatore precedente mi ha tolto praticamente tutte le parole di bocca. Sì, tutti con Inzaghi. Povero Inzaghi, non c'entra niente, lui ha detto 5%, io calo anche, forse il 3%. Povero Brocchi per il futuro, come povero Seedorf, ancorché un po' più spocchioso l'anno scorso, e povero Allegri 2 anni. Vorrei fa. Essere povero come Seedorf, ma comunque... Oggi Seedorf era ad Amsterdam. Vorrei essere oggi povero come lui, giuro. È sotto contratto fino al 30 giugno 2016, a 2 milioni e mezzo netti a stagione. Povero come lui. Si sta consolando. C'è un dato interessante, statistico. Ieri Inzaghi ha fatto il punto numero 35, ci ha messo 26 giornate. 35 sono esattamente gli stessi punti fatti l'anno scorso nel girone di ritorno da Clarence Seedorf, girone di ritorno che notoriamente di giornate ne ha 19, quindi ci ha messo 7 partite in più, Massimo. Ripeto, non è il male assoluto Inzaghi. Poi io non so che cosa pensate voi del cambio Bocchetti Pazzini di ieri sera, che tra l'altro raccontano i rumors di queste ore sia alla fine uno dei capi di imputazione che Berlusconi sta per il quale Berlusconi sta chiedendo conto a Inzaghi. 800 24 00 24, se mi dite cosa ne pensate. Grazie Massimo. Francesco da Salerno. Francesco, buonasera. Eccoci. Buonasera a te. Senti, volevo dire una cosa. Quando penso alla storia Inzaghi Milan, penso a quanti danni abbia fatto lo scimmiottamento della filosofia del Barcellona. Mi spiego. Guardiola arriva alla panchina del Barcellona dopo aver lavorato in un Barcellona con Van Gaal, Mourinho che faceva l'assistente di Van Gaal, l'allenatore della primavera, una cantera strepitosa. Arriva il quarantenne in prima squadra con una generazione fantastica, Xavi, Iniesta, tutta quella gente lì, e lì c'è un'idea. Qui al Milan non c'è nessun'idea, però si tende a scimmiottare, chissà se prendo il tecnico della primavera se posso fare un po' di strada così come quella che ha fatto il Barcellona. Sì, credo ci sia soprattutto grande differenza nel materiale che ha avuto in mano Guardiola rispetto a quello che ha avuto chiunque abbia allenato il Milan in questi anni. Certo, c'entra Inzaghi, non c'entrerà Brocchi, c'entra uno scimmiottare che è proprio dei momenti in cui non si hanno idee chiare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa volevo aggiungere, ho visto oggi Parma, 9.000 spettatori, una tristezza esagerata. Vengo da Salernitana Benevento ieri, 21.000 persone in Serie C, uno spettacolo meraviglioso. C'è qualcosa che non quadra, evidentemente. C'è anche da dire che Salernitana Benevento è stata la partita, il derby, prima contro seconda, anzi seconda contro prima, quindi c'erano anche delle circostanze che hanno fatto sì che la Recchi portasse più di 20.000 persone. Quindi ha ragione lo Tito. A Parma difficile pensare che in questo momento si possa riempire il Tardini. Secondo me sono già stati coraggiosi i 9.000 che sono andati oggi con tutto quello che è successo. Massimo Damasco Massa Carrara, Massimo. Sì, buonasera, mi sentite? Sì. Grazie per avermi convocato. Allora, io ritengo che il calo del Milan, sono milanista, lo seguo da sempre, sia legato al calo del consenso politico di Berlusconi. In questo senso, Berlusconi fin quando aveva qualche anno in meno se la giocava a livello politico, aveva idee, eccetera. Il Milan era tutto sommato una creatura che gli era strumentale. Gli ultimi strumentali a questa visibilità politica, eccetera. Quando lui ha cominciato a perdere il controllo della situazione a livello politico, ha coinciso fatalmente con la perdita di controllo anche del Milan, le scelte, come diceva l'ascoltatore di prima. Oppure Pato, Massimo, semplicemente in maniera fisiologica, è anche giusta, io credo, ha deciso che non si poteva continuare a spendere dai 50 ai 100 milioni all'anno per una squadra di calcio, ma lo ha fatto anche Moratti, lo hanno fatto anche gli Agnelli questo discorso, almeno in un paio di occasioni. Ma è la conclusione nelle scelte, perché lui stesso aveva detto puntiamo sui giovani, aveva iniziato un certo tipo di politica che è stato poi subito smentito per la voglia di continuare a essere il vecchio Milan che non poteva più essere, fatalmente e inevitabilmente per la questione del riordino dei conti e del fair play. Quindi cioè, secondo me è veramente un calo della persona che è legato probabilmente alle stagioni. Sì, sono anche male, stagioni della vita che passano, Massimo. Anni. Esatto. Sono quasi 30 oramai, noi continuiamo a dire 25, ma sono quasi 30. Poi arrivano i soldi da Thailandia, c'è una squadra di pensiero che dice con quei soldi il Milan farà una squadra l'anno prossimo per arrivare in Champions. Sai che potrebbe comprarla anche qualcun altro il Milan? Ma no, io te lo faccio sentire. Sì. È un amico tuo. Raiola, dici sempre che un giorno vorresti comprarti una squadra di pallone. Quale a questo punto? O Milan, o Roma, o Napoli. Beh, potresti sempre fare un'offerta. Sì, però il problema è che Milan, Roma e Napoli sono tutte e tre in un sistema calcistico sbagliato. Quindi la comprerei per cambiare anche il sistema calcistico. Ma avresti i soldi per comprarti il Milan? Ma i soldi, sì, la valorizzazione giusta non è i soldi che sono un problema. I soldi sono un problema quando la valorizzazione non è giusta. Non sono i soldi che sono un problema, del resto lo ha dimostrato anche Manetti, Mourinho, no? Come ha detto Mourinho quel giorno là, quando si è presentato, Milan, Roma, Napoli non sono mica. 800 24 00 24. Mi fate sentire a proposito degli allenatori giovani che si sono mezzi bruciati, Stramaccioni, microfoni di Sky. Non ha senso ritirarsi, perché oggi addirittura nel momento in cui eravamo in 10 ha fatto il centrocampista davanti alla difesa, e quindi questo ti fa capire, va bene, magari io lo capisco, non potrà essere un giocatore da 38 partite ovviamente, perché ha la mia età, però secondo me 20 mi fa ancora la differenza. Ilaria, proprio la stessa identica età? Sì. No, un anno in meno. Andrea. Un anno in meno, capito? Andrea, buonasera. Insomma, questo Stramaccioni che oggi se l'è vista brutta, l'Udinese veniva da tre sconfitte consecutive, è andata sotto contro il Toro, e poi solito di Natale è arrivata la vittoria. 8-0-0 24 00 24. Avevo promesso un Allegri che si è tolto qualche sassolino, Traffico. Ciao, sono Lapo Ilkan. Volevo fare un augurio a tutte le donne in ascolto su Radio 24. Un augurio pieno di energia e disinteressato, perché io credo nel sesso, ma non sono praticante. Tutti convocati. Sembra che sia tutto scontato e dovuto che la Juventus debba vincere il quarto campionato, e quindi è stato perso anche un po', secondo me, anche da parte di tutti un po' di entusiasmo. Invece vincere quattro scudetti di fila non è assolutamente semplice. Io con Sassuolo mi accontenterei anche di vincere 1-0. Dopo, alla fine, non è che sull'albo rimane che con Sassuolo abbiamo vinto 1-0 e quindi sono iniziati i processi. C'è scritto Juventus 1, Sassuolo 0. Con chi ce l'aveva Allegri oggi, vigilia di Juventus Sassuolo? Chi ce l'aveva? Ma ce l'aveva con i detrattori, con quelli che gli sparano addosso dopo che ha già vinto lo scudetto, perché nei fatti è un gioco mentale. Si tratta di capire fino a che punto la Juventus, non ti dico è demotivata, però fa la corsa su una Roma che ormai ha il motore spento, e fino a che punto sta pensando alla Champions League, al Borussia Dortmund. Alla riprova l'avremo tra 10 giorni. Con chi ce l'aveva Gianni Balzarini, collega di Sport Mediaset? Ciao. Buongiorno. buongiorno. Ce l'aveva con te. Credo fosse tua la domanda. Esatto. Ce l'aveva con te. Sì, sì, sì. No, no, con me. Diciamo in generale, ecco, insomma, ce l'aveva. Dice bene, si dice bene con i detrattori, eccetera. Non, io non parlerei di detrattori. Diciamo che, allora, quando la Juve non vince una partita o la perde in casa come ha fatto contro la Fiorentina, è chiaro che fa molto più clamore se, e sto parlando con tutto il rispetto, lo dovesse, dovesse capitare la stessa cosa all'Atalanta. L'altra cosa che aveva dato un po', tra virgolette, fastidio in sede di conferenza stampa della vigilia, o meglio, rianalizzando la conferenza stampa della vigilia della partita con la Fiorentina, era stato il fatto che Allegri avesse parlato di turnover assolutamente non massiccio e della possibilità addirittura che il turnover fosse effettuato nella partita contro, sì, il Sassuolo. E poi ne ha cambiati 7-8. Di domani sera, esatto, poi ne ha cambiati 7-8. Allora da qui si trae sostanzialmente una conclusione, almeno questa è mia personale e non so quanto possa essere condivisibile. Allegri sta pensando soprattutto a portare a casa lo scudetto, anche perché ha notato che ultimamente la squadra, la Juve, non rende più come prima, anche sul piano magari atletico, sul piano numerico, lo dicono gli 8 gol subiti nelle ultime 6 partite, e diciamo che sta un po' ragionando, tra virgolette, alla Conte, anche se accostare Allegri e Conte ovviamente si commette magari peccato, dipende ovviamente dai punti di vista, e allora ha detto, sta ragionando in questo senso, portiamo a casa questo scudetto. Posso dire che per 2-1 per gli scongiuri, ma missione compiuta. Sì, però posso dire che personalmente facendo questo ragionamento, Gianni sta facendo lo stesso errore che ha commesso Conte un anno fa, almeno per un mese in primavera. Può anche essere, però non dimentichiamo che ad Allegri è già sfuggita la Supercoppa italiana, che va bene, ok, non è considerato un torneo, un trofeo così prestigioso come un campionato, ma è sempre un qualcosa da mettersi in bacheca. Ha considerato che ovviamente la Champions è impossibile da conquistare, non solo per la Juve, ma anche per i prossimi anni da qualunque squadra italiana, e allora a questo punto qual è la competizione più importante tra quelle che rimangono, tra Scudetto e Coppa Italia? Evidentemente lo Scudetto, e allora è chiaro che poi il suo ragionamento prescindeva, ovviamente per ragioni di tempo, dal pareggio della Roma di quest'oggi, e quindi secondo me la sua scelta si spiega così, e la sua irritabilità si spiega altrettanto in questa maniera, insomma. Ecco. Poi credo avesse anche un sassolino lì da togliersi quando ha detto qualcuno inizio stagione non pensava certo che a marzo avremmo avuto 9 punti di vantaggio. Io ho l'impressione che da qui alla fine comunque Conte sarà un fantasmino. È un'altra conferma di quello che ti sto dicendo, senza voler essere presuntuoso, sia chiaro. Però è evidente che adesso lui ha capito che la squadra umanamente non può essere la stessa che si vedeva un mese e mezzo fa, perché tanti giocatori hanno giocato molte partite, perché ha avuto pochi ricambi. Si dice sempre ma non si vogliono accampare scuse o alibi, ma non sono scuse o alibi, sono dati di fatto. Prendiamo il caso di Evra, ragazzi. Evra era il sostituto di Asamoah sostanzialmente. Ha giocato 3/4 di stagione perché Asamoah l'hai perso, hai perso Romulo dall'altra parte, quindi è stato costretto comunque, adesso è stato fuori, starà fuori Pirlo ancora, cioè è stato costretto comunque a far giocare sempre gli stessi. È evidente che se giocano tante partite molti giocatori non possono avere lo stesso rendimento. Lui ha capito qualche campanello è suonato, campanello è suonato fisico, quindi magari ragazzi, non solo. Portiamoci a casa. Allora è chiaro che se la Juve non avesse fatto quelle due, tra virgolette, cavolate di pareggiare col Cesena, una partita che comunque aveva ribaltato in 5 minuti e lì dimostrando ovviamente che se voleva la poteva far sua, e non avesse fatto la successiva cavolata di pareggiare in casa della Roma in una partita che comunque aveva avuto sotto controllo nettamente prima del gol di Tevez e nella quale bastava un pochino, qualche accorgimento in più per evitare il pareggio, allora avrebbe ragionato in maniera diversa. Io sono sicuro che se avesse avuto questi 3 punti in più sulla Roma già alla vigilia di questa gara, avrebbe fatto con maggiore interesse domani e anche alla Coppa Italia. Avrebbe fatto giocare i titolari all'andata. In un flash, questo, Gianni, in un flash, perché sì, siamo in chiusura, vai. Domani giocano i migliori. E domani giocano assolutamente i migliori, perché vuole chiudere la pratica. Allora, se chiude la pratica domani, chiudere tra virgolette, allora io mi aspetto di vedere a Firenze il 7 o l'8 di aprile, adesso non ricordo quale sia la data esatta, credo il 7, certo. Mi aspetto di vedere a Firenze i migliori. Sì, credo che per chiudere la pratica, considerarla tale, gli sia anche bastato forse vedere oggi Chievo-Roma o ascoltare Garcia nel dopopartita. Sì, no, però sai, alla fine sono i numeri che contano, no? Quindi la Roma ha pareggiato, se la Roma oggi avesse vinto è chiaro che si sarebbe trovata a meno 6, la Juve sarebbe scesa in campo domani sera con più 6, quindi cambiavano le prospettive, cambiava certo. Un po' tutto. 58-50 e questa invece è la classifica. Grazie Gianni. Ciao. A voi. Ciao. Gianni Balzarini, 800-24-00-24. Dopo il GR arriva anche Pierluigi Pardo e vi racconteremo anche come sta finendo la vicenda di Inzaghi. Però siamo qui fino alle 19. Vogliamo sapere la vostra classifica delle responsabilità nello sfascio del Milan. Ci sentiamo subito. Convocati. No, voglio questa cosa dritta, Billy, dai, tu lo sai, lo cacciano o non lo cacciano? No, io sento troppe persone dire che lo cacceranno e quindi mi viene da pensare che verrà cacciato. Secondo me sarebbe un grossissimo errore, soprattutto se la persona che deve sostituire Pippo dovesse essere Brocchi. Hai detto qualcosa prima della partita o dopo, cioè, visto che potrebbe anche essere l'ultima tua partita in primavera? No, assolutamente no, anche perché non si è mai parlato di questa cosa, io personalmente non ne ho mai parlato e non me ne hanno mai parlato. Grande fiducia in Brocchi, da parte di colleghi ed ex giocatori, anche grandi giocatori del Milan. Squisito. Pierluigi Pardo è qui, lui è uno di quelli che dice c'è aria di cacciagione. No, io in questo sono d'accordo con questa brutta, cioè sento dire in giro e quindi non lo so, io non ho... Non ho notizie, come dicono i migliori giornalisti, non ho notizie. C'è però una differenza strutturale. Se peccato si avvicinano mi scanso, no scherzo. C'è però una differenza strutturale tra comunque mandare via Inzaghi e prendere Brocchi e mandare via Mazzari e prendere Mancini. Sì, perché se venisse confermata questa cosa, mi rendo conto che la cosa può sembrare... così insomma mettere il dito nella piaga, ma cioè gli allenatori milanesi, delle squadre milanesi, se vedono Nico Lopez secondo me si voltano all'altra parte, no? Perché Nico Lopez esattamente la stessa dinamica, pareggiò all'ultimo minuto la partita con l'Inter e venne cacciato Mazzarri ed è successa questa cosa ieri col Milan e vediamo cosa accadrà con Inzaghi. Tutta questa cosa per dire che quando è entrato una Nico Lopez ieri clamorosa in telecronaca ha tirato, l'avevo detto anche prima, una gufata sensazionale. No, gufata, se ne mancherebbe altro, poi la gente ci crede, no, però voglio dire, secondo me è oggettivamente una cosa che va detta, non dirla significa omettere una clamorosa coincidenza che si è verificata già nella partita di ieri, perché la partita di ieri come sviluppo è identica a Inter-Verona, col gol del vantaggio di Toni, la squadra di Milano che da 0-1 va 2-1 e poi il gol a un minuto dalla fine, quindi cambiano i tre minuti il momento del marcatore, ma il marcatore è lo stesso, quindi la coincidenza è clamorosa, fare assolutamente non è... Non appartiene alla mia vita proprio. Noi abbiamo chiesto ai nostri amici a casa, continuiamo a chiederlo, io ripeto per l'ultima volta il numero perché siamo travolti dalle telefonate, ma cerchiamo di dare spazio a tanti, 800 24 00 24. Se poi Pippo è davvero il male assoluto, il grande responsabile, Pippo che ha fatto certamente tutti gli errori che ha fatto, c'è un amico che ha scritto, guarda qua, sì. Podio delle responsabilità della situazione del Milan, primo Silvio Berlusconi che non ci acchiappa più, seconda Barbara Berlusconi che di calcio capisce come io capisco di sumo, terzo Gagliani che doveva andare mandare al diavolo tutto dopo la vicenda Pirlo e quella Pato, e poi buon ultimo Pippo Inzaghi che lavora col materiale che ha e con l'esperienza che ha, ma lo e sapevano sì, tutti. Quinto le banche. Sì, poi c'è l'euro, il buco dell'ozono. No, a parte le battute, non è solo colpa di Pippo, non ci sono dubbi. Poi che Pippo non ci stia capendo molto mi sembra evidente, e soprattutto in questi mesi abbiamo assistito a una serie di cose anche simboliche nella tragedia che secondo me rendono la posizione di Pippo Inzaghi più complessa, nonostante ovviamente appartenga alla storia del Milan. Da un lato c'è l'affetto e la persona che è, il suo legame col Milan che diciamo porterebbe ad essere molto pieni di benevolenza, dall'altro ha fatto delle cose, la sostituzione di ieri che già c'era stata a Torino nel finale, la sostituzione Alex al posto di Menes nel finale contro il Toro a un quarto d'ora 20 dalla fine, ieri a un quarto d'ora dalla fine, Bocchetti per Pazzini, è proprio la sostituzione, cioè è una cosa veramente poco da Milan, nel senso che il Milan ha avuto alti e bassi in questi anni, ha avuto più alti che bassi se guardiamo gli ultimi 25 anni di storia, ma anche nei bassi comunque perdeva da grande squadra in crisi, non perdeva la provinciale. Sì, ci sono fotografie che restano, no? Poi Torino-Milan, ragazzi, è una partita che, l'ho detto, cioè forse in certi casi è meglio perdere. Pier, piuttosto è un po' pareggiare. Come il poi si è messo a piovere di Mazzarri. Cioè, sì, poi sì, ti resta in mente quella partita. Cosa esatto, lì esatto. Di Inzaghi dovesse finire come pare finirà, ti resterà in mente il rosario, lo sguardo un po' così e quel cambio che evidentemente non era da Milan. Cioè, c'è una differenza strutturale per andare dove? Sì, per andare, no, ma io per andare al 30 giugno. Francamente non credo, cioè credo che sia abbastanza... È chiaramente il tema giornalistico della giornata, ma non credo ci sia nessuno oggi con la bacchetta magica in grado di resuscitare il Milan, e quindi forse da questo punto di vista sarebbe una prova di forza, di spalle larghe e di stile da parte della società confermare Inzaghi fino alla fine dell'anno, rassicurarlo, e sarebbe anche forse la cosa che farei, arrivo a dirti che forse è la cosa che farei, non è stato in questa male, situazione. Detto questo, per me ci sono anche delle sue responsabilità, cioè questo Milan con tutti i suoi difetti strutturali, con tutti i suoi problemi, non è una squadra che deve avere 35 punti, non può fare 10 punti in 10 partite, qualche punto in più insomma mi aspettavo ce l'avesse. Fammi sentire Davide dalla provincia di Monza Brianza. Davide, sì, ciao, ciao, eccoci, ciao. Allora, premetto che sono milanista, sì, e allora per quanto riguarda la situazione di Inzaghi, io sono a metà tra Inzaghi e la società a livello di colpe, perché da un lato secondo me il gioco del Milan adesso è, non dico all'80%, ma quasi colpa di Inzaghi. Comunque anche a livello di giocatori non sono così scandalosi come stanno dimostrando. Abbiamo preso Cerci, che l'anno scorso è stato il migliore esterno del campionato, destro come media gol, uno dei migliori, sì, anche di quest'anno. Poi se non gli arrivano i palloni, cioè è difficile che destro i gol le faccia anche nel Milan. Soprattutto è difficile che li faccia da seduto. Sì, sì. Però abbiamo preso anche Bonaventura, c'è Menez, De Jong come interditore è un gran giocatore. Quindi un altro allenatore al posto di Pippo farebbe meglio, questo Davide è quello che pensi? Da un certo punto di vista sì, però dall'altro dipende sempre quello che vuole la società, perché quando ha messo Pippo sulla panchina del Milan sapeva bene a cosa andava incontro, quindi a esonerlo adesso sarebbe, sì, secondo me, un errore, ma soprattutto un'incoerenza di scelta rispetto all'inizio dell'anno, perché se scegli Inzaghi sai benissimo che deve crescere. Sì, sì, sì. Ma probabilmente Inzaghi in questo momento storico era l'allenatore giusto per il Milan, che in una fase di passaggio. Chi è? Che buonasera. Succede? Parlavo della fase di passaggio. No, a tutti gli amici di tutti i convocanti weekend, assolutamente la mia trasmissione. Grazie Presidente. Grazie. Anche l'unica, vabbè, comunque. Sì. Ed essendo Pardo sempre, sì, spiritoso, ed essendo la vostra una trasmissione coesa, sì, e molto positiva, sì, voglio regalarvi in esclusiva nazionale uno scoop importante. Hai visto che ospitarlo ogni tanto? Prego. Allora, su Milan, sì, ho su Milan. Esattamente, sì, ho ceduto, sì, a Mr. Bean, sì, il 30% del Milan per 250 milioni. Era sui giornali, però oggi, però detto da lui, Bean. Comunque, sì, comunque mi permetto, no, B senza la N, Presidente. No, comunque insomma abbiamo la grazia. Ma non sapevate, no, che io ho fatto l'affare, sì, del secolo, perché ho, sì, ceduto a Mr. Bean il 30% della fortissima rosa del Milan, sì, e dico questo: la nostra è una rosa di 11 giocatori titolari, sì, più allenatore. No, ma lei non ha venduto il 30% della rosa, lei ha venduto il 30% del Milan. I giocatori rappresentano, sì, il capitale, sì, e ho fatto questo incredibile, sì, affare incassando, sì, da Mr. Bean 250, sì, allora, sì, ho venduto Montari, sì, e per questo dovrei ricevere la grazia da Mattarella, sì, Paletta perché ostenta un look, sì, che spaventa la gnocca, sì, e questo si sa, e poi, no? Poi ho venduto lo strangolatore, sì, di Milanello, cioè MXS, sì, che tra l'altro era il migliore, poi. Il quarto chi è? E abbiamo ceduto anche Inzaghi. Oh, allora l'avete fatto fuori. Non l'ha portato, no, l'ha voluto non lui. L'ha portato, sì, a, sì, e adesso possiamo, sì, investire. Per esempio, investire in Brasile. In Brasile, quindi arriva Neymar. Neymar, poi chi c'è Giampi, ancora? Giampi, come si chiama la patonza brasiliana, la bambina quella di 21 anni? No, presidente, no, presidente, no, Neymar. No, Giampi dice sì, di no. No, no, Neymar, no, è uno, è un giocatore, presidente, è un giocatore. Ma è un giocatore, poi sì. Noi investiremo in Egitto. Oh, sì, Salah. Giampi, come si chiama la patonza? No, non si riesce a fare una cosa seria. Non mi risulta, com'è questa sala? È della Fiorentina. Arrivederci, presidente. Una volta che si riesce a fare una cosa seria. Arrivederci. E io, Giuseppe Cruciani, alle donne quest'oggi gli auguri non li faccio, va bene? Io le marchette non le faccio, va bene, cazzo? Ma di che stiamo parlando? Traffico. Tutti convocati. Marco dalla provincia di Bologna, cui diamo il premio per la fedeltà al telefono, nel senso che credo sia una ventina di minuti che aspetta. Marco. Grazie, Marco. Ciao Marco! Non cadere adesso. No, non vi cado, sto guidando verso Milano da Bologna, va bene. Com'è il traffico? Il traffico com'è? A che chilometro sei? Traffico, sono quasi a Piacenza, il traffico è rallentato, verso l'estate peggiora sempre, diciamo che... Ah, certo. Oggi con questi primi raggi di sole molti sono portati. Stavamo siamo giusto parlando io e parlo. Sì, se c'è traffico dall'altra parte è Pippo che torna vento a casa. D'estate. Pippo, mi ricordo un po' mio amico Lopez del Bologna che, come si dice, i neopatentati non possono guidare delle fuoriserie o c'è un rapporto peso-potenza, cavalli fiscali, insomma una cosa... Sì. Non so, mi sembra che dare una fuoriserie... Come sì, Milan, una BMW, dai, una fuoriserie, questo Milan, no. No. La BMW darla, come dire, un allenatore per quanto bravo, però senza questa grande esperienza, magari poteva essere forse un rischio, non lo so, credo che forse la voglia di risparmiare qualche soldo dopo l'esperienza Seedorf magari ha un pochino influito, come un pochino, adesso faccio un parallelo con il mio povero Bologna, che non è più tanto povero, anzi insomma Bologna si è salvato anche Lopez ieri, mi risulta. Il Bologna si è salvato contro l'ultima classifica, giocando Maluccio il primo tempo. Lopez è molto contestato, Bologna è un allenatore che ha pochissime esperienze, sta guidando anche lui tra virgolette una fuoriserie della Serie B. Comunque era passato da Cagliari, non è proprio come Inzaghi e magari Brocchi che fra un'ora ci troviamo. Però mi risulta che non, almeno a Bologna si dice che non era proprio da solo ad allenare. Comunque è vero, c'era questa esperienza. Grazie Marco. Ciao. Guida piano, Saluto Guido piano. Aspetta, saluto Furio Fedele che sennò si preoccupa. Oh, torniamo a parlare di Milan. Sotto e secondo me avevamo avuto una buona reazione e a prendere gol a 10 secondi dalla fine in quel modo è da ingenui e da polli. Se ci puoi dire cosa ti ha detto Gagliani dopo la partita? No, io non ho visto ancora nessuno. Potrebbe essere anche la tua ultima notte qui. Tu che cosa vorresti dire alla società? Perché credi di meritare insomma la permanenza? No, ma la società deve fare quello che crede. Io sono deluso come lo sarà la società. Questo Inzaghi ieri, riassunto sonoro dell'ultima notte forse. Adesso lo chiediamo a Furio Fedele. Ciao Furio. Buonasera, eccomi. Ultima notte, sì. Ma chi lo sa, per il momento la giornata è ancora molto lunga, perché ad Arcore ci dovrebbe essere un summit, come si può dire in questi casi, una cena con Berlusconi sicuramente, che è il padrone di casa, Galliani, e forse ci sarà anche Inzaghi. Se mi permetti un piccolo appunto, non so se era un, penso un radioascoltatore, sì, che prima era in macchina, seguivo, ma evidentemente negli anni 90 era molto giovane o in fasce, perché il Milan di adesso è un'utilitaria con le ruote sgonfie. A quei tempi c'era quel Milan di Sacchi e Cappello. Sacchi arrivava dalla Serie B, sconosciuto, ve lo ricordate, no? Più o meno, insomma, io sono più anziano di voi, ma soprattutto Capello veniva considerato uno yes man, e meno esperienza di loro probabilmente, soprattutto di Sacchi, che non aveva mai giocato a calcio ai livelli né di Capello né di Inzaghi. Quindi effettivamente non è che c'è una regola fissa. Ah no, ma c'è anche, c'è stato Guardiola e c'è stato Ciro Ferrara, al quale auguriamo ovviamente una carriera strepitosa, però che venne preso. Luigi, attenzione, Guardiola è stato un grande giocatore. Tu riferimento a Sacchi. Sacchi, che era non è mai stato un calciatore, ma è stato un grandissimo allenatore. Nel calcio regole precise non ce ne sono. Sono d'accordo. L'unica regola è avere dei grandi giocatori, dei grandi campioni. Quei 2000, anche io ho vissuto in prima persona, perché con la mia età erano delle astronavi, non erano delle fuoriserie, capisci? Perché quindi possiamo dire fuori erano altri tempi, però possiamo erano dire erano altri tempi sotto tutti i punti di vista, e si è visto, perché basta vedere che cosa hanno vinto. C'erano anche altre possibilità di investire soldi, di comprare i grandi campioni. Il Milan, fra palloni d'oro acquisiti e comunque conquistati, ne ha avuti 12 fino a poco tempo fa. L'ultimo, se non sbaglio, è stato proprio Kakà e Ronaldinho, che è arrivato comunque da pallone d'oro. E stiamo parlando non di fuori serie, di qualcosa che solamente il Barcellona e il Real Madrid forse si sono potuti permettere. Esatto. Furio, io però volevo capire, perché tu ci dici non è scontato che ci sia l'addio a Inzaghi. Se Inzaghi dovesse uscire questa sera tardi, ammesso che sia invitato a tavola, da Villa San Martino, ancora allenatore del Milan, che cosa significherebbe? Che esiste un margine ancora di fiducia nei suoi confronti, o che la soluzione Brocchi è talmente al ribasso che neanche questo Milan la vuole prendere in considerazione? Ma guarda, in realtà, con tutto rispetto anche per Christian Brocchi e probabilmente anche per quello che potrebbe essere un po' il suo mentore, vale a dire Filippo Galli, che potrebbe diventare il direttore tecnico in un frangente simile, probabilmente non c'è piena fiducia. E poi si dice anche che così il management di casa Milan voglia attendere anche l'esito della partita dell'Inter per avere la riprova, nel caso malaugurato ovviamente che i nerazzurri non riuscissero a fare il risultato pieno contro il Napoli, che in realtà poi il cambio dell'allenatore in certe circostanze, in certe situazioni, poi ti lascia il tempo che trova. E tutto questo, attenzione, hanno bisogno di Napoli-Inter per deciderlo? No, verrebbe certificato dalla classifica, ecco, la cosa è questa. Cioè, tu dici Inter 35, Milan 35, a quel punto se l'Inter non è riuscita a rilanciarsi pur investendo e non facendo un cambio al ribasso, che senso ha togliere Inzaghi? Anche perché non c'è un'alternativa vera, sì. Con tutto rispetto di Tassotti, con tutto rispetto di Filippo Galli e Brocchi, o solo Brocchi, i nomi sono questi. Si tratta di elementi fidatissimi a livello proprio di casa Milan, ma che poi a Milan ormai speriamo sia salvo. In Europa non ci va più, per evidenti motivi anche di logica, non solo di aritmetica, e quindi si arriva faticosamente, penosamente, come ieri sera, a quella che è la conclusione di questo campionato. Questa è un po' la situazione. Non c'è da gioire e non c'è da essere ottimisti, soprattutto perché poi ovviamente avete seguito anche la vicenda societaria, perché anche quella è molto più complicata, se possibile, di quella tecnica, e vedremo cosa succederà. Però nessuno è convinto, e non dico che non sanno cosa fare, però che ancora ci stanno pensando, anche molto rischia di restare lì, ma anche perché proprio come dici giustamente tu, non c'è, paradossalmente non c'è neanche un obiettivo in questo momento, cioè non è che il Milan ha davanti a sé la prospettiva che facendo tre mesi straordinari può andare in Champions League al massimo, ma ad oggi sembra un sogno irraggiungibile, c'è un posto in Europa League ma dovrebbe fare un filotto di vittorie che è quasi impensabile, no? La Coppa Italia non c'è più, le coppe non ci sono, quindi veramente siamo di fronte a tre mesi dove l'aspetto fondamentale è programmare, cioè cercare di fare la cosa più utile, perché la vita però è l'anno prossimo. Programmi con Brocchi proprio. Ma perché ragazzi? Perché magari Brocchi è molto più bravo di Inzaghi come allenatore, cioè non è. Ma no, Pigi, il problema è che non ti dico manca la materia prima, però hai visto anche al mercato gliel'hanno fatto a gennaio, dai. A gennaio gli hanno fatto un grande mercato, e bisogna dire le cose come stanno. Poi se non voleva questi giocatori è un altro discorso. No, li ha voluti lui, perché destro li voleva lui. Ragazzi, a Roma non si segna più, e le vedove di destro comunque ci sono, cioè l'attaccante d'area di rigore capace di risolvere le situazioni. Non so se hanno ragione, c'è anche chi dice che insomma se destro fa panchina a Pazzini, evidentemente non è una grave perdita. Secondo me destro è un buon giocatore. L'errore è un buon giocatore. L'errore è stato ieri sera, perché se hai destro, volente o volente punti su destro, perché comunque è stato è un giocatore di valore, di livello estremamente costoso, sul quale fra parentesi devi costruire il Milan 2015-2016, sì. Qui tipo ha sbagliato, perché è stata una decisione probabilmente dettata dalla disperazione, dalla voglia di cambiare qualcosa, e poi c'è stato, come al solito, non è la prima volta, quel cambio scellerato al 32esimo, Bocchetti, Pazzini, che mi ha detto abbia fatto impazzire Berlusconi. Quelle sono cose, io non lo so, io non conosco Berlusconi di persona, penso di averlo mai incontrato, forse una volta. Berlusconi è furibondo, però pur non conoscendolo, quelle sono le classiche cose, cioè quelle sono le classiche cose che non devi fare. Non devi, piuttosto, non lo so che è facile, piuttosto da qui, 3-2. È facile da qui, però insomma, ma lui ha fatto la difesa 5 la prima giornata contro la Lazio, a Torino ha fatto un cambio simile, cioè a me sembra, al di là di tutto, al di là del fatto che nessuno di noi può sapere se Brocchi possa essere meglio o peggio, perché magari Brocchi è un fenomeno della panchina, cioè non lo sappiamo, manca la controprova in un senso o nell'altro. Certo, è chiaro che oggi il tifoso del Milan vorrebbe Ancelotti, vorrebbe il grande allenatore, no? Quindi è chiaro io che io vorrei Cristiano Ronaldo più che appunto, Ancelotti ognuno ha i suoi desideri, però adesso, al di là di tutto, insomma, con tutto l'affetto per Inzaghi, che probabilmente PG, l'affetto ce l'abbiamo tutti, ma che Inzaghi fosse inesperto, non esperto, non fosse capace, lo sapevamo tutti. È stato scelto anche con largo anticipo, ma può aver deluso. Ha fatto sei mesi e può aver deluso, magari si aspettava di più, ma sapevi che era una stagione scellerata, arrivavi da una stagione dove hai cambiato due allenatori, dove hai ottenuto l'ottavo posto, dove sei rimasto fuori dalle coppe, dove questa assenza dalle coppe avrebbe inciso in maniera determinante, terrificante sul bilancio, e se ti aspettavi, e se no non era il messia Inzaghi, ma non lo sarebbe stato. Io mi aspettavo meglio, nessuno. Io mi aspettavo molto meglio, secondo me questa squadra è migliore della classifica che ha. Anche perché meglio di così, a livello di numeri non è difficilissimo. Furi, ti devo salutare. Ciao Furi. Hai dato 5 a Moras. Ha perso il fantacalcio. No, non ho ancora Furi, perso, no. Ma sto 5 a Moras. Perché hai dato 5 a Moras? Bene, Moras. Ma telefonami, tu hai tanto poi giù, intanto. Ma ieri non c'era. C'ero. No, però noi dobbiamo dire che queste cose non succedono. Non miniamo la credibilità del fantacalcio. Ma mai. Tanto io gioco con i miei amici e tutti mi dicono, ma tu controlli, fai. Non succede, a prendere la formazione del Milan, voi state a pensare a tanti altri. Ma avevo fatto una battuta, però 5 a Moras, non mi va giù questo 5 a Moras, ciao Furio, almeno da 6. Ciao Furio, no, ma non puoi dire, chiamiamo Moras subito. Non puoi dire queste cose, Pierluigi, campionato falsato, ma va bene, ma il fantacalcio, no, meteo. Sì, certo, è come una sconfitta stasera, purtroppo, ma eravamo tutti delusi e sapevamo che potevamo fare una cosa in più a tenere questo vantaggio, e purtroppo non siamo riusciti e siamo nell'emergenza. E basta, insomma, penso ci siano poche parole. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Io lo sapevo che andava a finire così. Scrive Sebastiano, non Barisone, un amico. Scrive: abbiamo scoperto che Pardo è l'eminenza grigia del fantacalcio. Io non si scherza, ma no, serie. Ma no, ma no, no, non si scherza. La mia posizione in classifica ti assicuro che chiude ogni dubbio, ogni sospetto. Comunque Mora si è preso 5 anche sulla Gazzetta, quindi insomma, si capisce bene il 5? Voto, ma di non Furio è possibile, Fedele. La Gazzetta non l'avevo vista. Passa un attimo, la Gazzetta 5. Non ci credo. 5 ha preso Mora. 5 anche sulla Gazzetta. 5. Lorenzo da Udine. Come si fa a dare 5 a Mora? Adesso guardiamo la pagella. Lorenzo. Te la leggo. Ecco, io sono juventino, ma volevo esprimere tutta la mia più ampia solidarietà agli amici milanisti e dire loro che mi mancano davvero. Poi non c'è neanche più la soddisfazione a prendere per il sedere al bar, perché fanno veramente immagino, è la nota ironica. Altre cose invece un po' più serie. Io penso che fosse evidente la mancanza di, dico fosse una cosa pesante, però la mancanza di personalità un po' di Inzaghi, perché non mi è mai sembrato un allenatore. Ho sentito prima i paragoni con Sacchi, con Capello, però decisamente impropri, perché insomma Sacchi è una persona che, pur venendo da Fusignano, ha saputo tenere testa a giocatori di qualità internazionale. Capello, sapevamo la sua esperienza precedente, abbastanza pieni di sé nel senso buono del termine. Sì, no, ma parlavamo degli allenatori naif alle prime armi, ecco. Io penso che sia stato un errore, ma è un errore che il Milan sta perpetuando anno dopo anno. Sono anni di mancanza di una seria programmazione. Ecco, io guardi, ho in mente l'immagine di Parma-Milan la seconda giornata, ecco, vedere Inzaghi esultare in quella maniera, neanche avessero, poi sembrava a dicembre che fossero oramai di fronte a una stagione, hanno vinto con Real Madrid, cioè, però, insomma, i punti dicevano quello, Lorenzo, erano a 3 punti dalla zona Champions, quindi diciamo a dicembre hai anche alle spalle un po' di stagione per cominciare a fare un bilancio parziale. Io difatti credo che uno dei misteri sia anche perché ci sia stato questo cambio tra fine dicembre e il 6 gennaio. Sì, ti ricordi l'amichevole per quello a parte l'amichevole. Comunque ha giocato al Real, insomma, era un bel momento, era un bel momento che è finito subito da quel Milan Sassuolo dopo il vantaggio di Poli. No, ma io ribadisco il concetto, cioè secondo me Inzaghi è stata una scommessa fatta su uno straordinario personaggio e anche una bella persona, sicuramente molto legata al mondo del Milan, quindi c'era tutto che quadrava, tutto che era tondo, però poi mi pare che dopo 6 mesi si possono fare dei bilanci e questa squadra, mi sembra, al di là del discorso dei punti, ha proprio problemi di personalità. Gli attaccanti sono stati sventrati, tutto ciò che non è Jeremy Menes lì davanti è morto. Pazzini ieri ha toccato 23 palloni in 75 ma, insomma, il centrocampo, la produzione offensiva che è pochissima, eppure almeno sulla carta Bonaventura e Montolivo sono due giocatori che insomma possono anche darti qualcosa. Montolivo, no? Non c'è mai stato. Montolivo c'è mai stato, sì, ha iniziato con l'infortunio. L'infortunio si è rifatto male, non è un fattore. No, però voglio dire, insomma, io credo che quest'anno il mercato del Milan, mi ricordo quello che dicevamo in estate, sembrava un mercato interessante. Sì, però anche in inverno, a gennaio l'abbiamo detto. Poi Cerce, nelle condizioni che abbiamo visto, destro non prende i palloni, Suso non pervenuto, sì, però. Paletta, Bocchetti hanno i limiti. Alla fine ci riduciamo almeno per il giorno a Tonelli. Poi alla fine, se tu parti da un certo tipo di, da un punto X, e i giocatori fanno underperform, come dire, per Barisoni, cioè fanno meno bene di quello che ti aspetti, ci sarà anche la responsabilità dell'allenatore. Questo è quello che dico, e sono convinto che paradossalmente adesso Inzaghi si sia incastrato in una situazione che non fa bene neanche a lui, perché magari Inzaghi, esattamente come Stramaccioni al momento dell'Inter, potrà avere tutto il tempo per costruirsi una carriera, magari fra 10 anni sarà un allenatore fenomenale, perché insomma è sempre stato un ragazzo intelligente, uno che di calcio ci capisce, con una certa personalità, una certa statura, paradossalmente rischia di diventare così una trappola anche per lui questa esperienza, sì, andare avanti. Immagino bruciato, lo chiedo anche a Daniele Adani, che saluto. Ciao Lele. Ciao, bentrovati. Sì, ciao, rischia di bruciarsi. Come stai? Bene, te come stai? Oh, molto bene, diciamo. Che Adani ha zampe che è reggiano, no? Allora, i parmigiani. Che ti emoziona vedere il Parma in campo? Sì, una bella cosa, no? Sono contento perché questi ragazzi, anche in una situazione difficile, mostrano sempre dignità, onorano l'impegno, e veramente, cioè, loro sono un bel messaggio, loro inteso come gruppo. La situazione è un disastro, ecco. Certo. Speriamo, insomma, di contenere i danni. Dai. E se fossi Silvio Berlusconi questa sera, cosa decideresti di fare? No, non, guarda, non mi interessa nemmeno cosa fanno rispetto a tenere Filippo. Allora, lo salutiamo, ciao Lele, è stato un piacere. No. Non mi permetterei mai né di giudicare l'operato, nel senso, io posso valutare quello che vedo della squadra e avere un'idea su quanto Filippo ha inciso o non inciso sulla squadra, che ovviamente è poco, perché è lampante, però poi le scelte di prendere, esonerare, così non... Assolutamente, anzi, io spero che lui rimanga e che faccia una bella carriera. Questo glielo auguriamo tutti. Perché ha inciso poco? Che cos'è che non ti piace? Allora, no, io quello che. No, nel senso, non è che ci vogliono, secondo me, tanti scienziati. Io credo che il Milan in 8 mesi non c'ha una cosa da salvare. Cioè, nel senso, ma con molta onestà, probabilmente anche un po' di cinismo, però non vedo una cosa migliorata nel Milan. Non c'è gioco, la squadra subisce, quando attacca molte volte in maniera disordinata. Poi, voglio dire, abbiamo visto anche delle buone partite del Milan, dei solisti che hanno fatto delle grandi giocate, soprattutto Menez, ma non è che la squadra ha lasciato un'impronta o ha un'identità da dire è partita non so in un modo e adesso ha migliorato del 20%. La squadra è sempre andata abbastanza male. Anzi, era pure partita Benino, era pure partita, sì, Benino, esatto. Primo tempo di Parma, secondo me, migliore dell'anno. Sì, ma anche con la Lazio, la prima che ha vinto 3-1. Un contropiede, Esatto, perfetto. Però in quel modo lì. E per 7-8 partite l'ha cercato di mantenere. Poi ha cercato di fare un salto ed è rimasta, secondo me, in una terra di mezzo, perdendo anche le poche certezze. Quindi vulnerabile in difesa, disattenta, spesso ha cambiato la coppia centrale, anche per infortuni. Quindi la squadra non ha lasciato un segno. E questo bisogna prenderne atto, e sicuramente non è colpa solo di Pippo. Pippo però non è riuscito ad alzare il rendimento dei singoli della squadra. Beh, comunque a parte questo tutto bene. Poi tu dici, spero che resti, però stiamo di solito la conclusione di questo ragionamento è l'esonero. Nel mondo del calcio è una conclusione abbastanza ovvia. Riusciamo a parlare 3 minuti anche con Lele Adani di Napoli-Inter, che non è una partita proprio banale, Vi faccio sentire qualcosina della vigilia. Napoli è una squadra che, anche se ha perso domenica a Torino, insomma, una squadra che sta bene, sta facendo un grande campionato, è una grande squadra secondo me, e quindi sarà una partita difficile, però insomma, a noi chiaramente riuscire a fare o continuare a giocare comunque delle buone partite, ma anche battere una squadra sopra di noi sarebbe molto importante, questo sicuramente. Dobbiamo creare una situazione che tutti devono essere preparati per andare in campo e dare il meglio, perché le partite che si giocano adesso può essere una partita per andare avanti l'Europa League, può essere una partita per arrivare in finale della Coppa o per arrivare al traguardo del secondo posto. Che ti aspetti stasera da Napoli-Inter? Napoli ha quell'obiettivo lì, la Roma ha 5 punti, potrebbero diventare 2, credo che a livello di motivazioni non manchino. Lele. No, sì, ovviamente mi aspetto una partita che cominci diversa come il Napoli ha cominciato a Torino, quindi con un atteggiamento propositivo, in casa credo che lo farà, e l'Inter che deve proseguire secondo me su quella strada. Mancini, quando è arrivato a metà novembre, ha dato qualcosa all'Inter. E allora torniamo al discorso di prima: quando tu dai un'impronta, poi la squadra continuerà a fare errori, sicuramente è sotto il livello delle prime, però è una squadra che è verso un percorso ed è palese. Quindi io credo che l'Inter cercherà di fare la stessa partita, ma contro non troverà di certo il Napoli che, insomma, che ha affrontato una settimana fa il Torino. Sì, questo è evidente, cioè la differenza tra il Milan e l'Inter è questa, anche un cambio Brocchi-Inzaghi non sarebbe progettuale come è stato progettuale il cambio di Mancini e come è stato in fondo progettuale anche il mercato dell'Inter. Sì, tanto io credo sia chiaro che chiunque esca allenatore questa sera dal vertice ad Arcore, che sia Inzaghi confermato, che sia Tassotti difficilissimo o che sia Brocchi più facile, non sarà l'allenatore dal primo luglio. Non sarà l'allenatore dal primo luglio. Beh, a meno che non sia Brocchi, se dovesse fare. Facciamo come Ferrara che vince le ultime ragazzi, due. Ma adesso non è poi allora. Se decidiamo che Brocchi non è capace perché c'ha questo cognome o perché magari Brocchi è un bravissimo allenatore, il profilo Inzaghi aveva il profilo del grande personaggio, però non è andata bene. Ripeto, i grandi allenatori ti costano sia dal punto di vista diretto dello stipendio che ti devi dare, sia dal punto di vista indiretto dei giocatori che ti fanno prendere. Prendi Cappello, mi prendi questo, non è facile. Lotti che sognava Fulvio Fedele, appunto. Non è uno che va leggero. Chiedo ancora un minuto di pazienza a Lele Adani, perché a proposito di Mancini cominciamo anche a fare un ragionamento, però prima c'è il traffico. Benitez, buonasera, sono Mercurio Radio 24. Perché non risponde alle domande di noi giornalisti? Ripeto, che sono arrabbiato, soprattutto con Carlo Henta, che mi ha fatto girare Los Balotes e tante cose, però preferisco non parlare perché sono arrabbiato. Tutti convocati. Purtroppo dobbiamo passare da domeniche un po' così, a volte un po' grigie per il risultato, però sul lavoro della squadra, che la squadra si è migliorata al 100%, questo è assolutamente vero, quindi non assolutamente per il prossimo anno noi avremo una squadra che lotterà per lo scudetto, questo è certo. Hai capito cosa ha detto Mancini? Io non so se sia un peccato di presunzione, lo chiedo a Lele Adani che lo conosce molto bene, o se invece è convinto della bontà del suo lavoro. Guarda, Roberto ha una convinzione incredibile sul proprio, è una positività sulle cose, e secondo me ne ha ben donne, perché la squadra è migliorata molto e ha una filosofia ben precisa. Secondo me per poter competere per lo scudetto devono essere inseriti 3-4 giocatori, e soprattutto nel reparto arretrato deve essere più sicura la squadra, perché molte volte vanifica una buona mole di gioco con alcuni errori abbastanza, secondo me, ancora grossolani per il tipo di calcio che vuole fare Mancini. Dietro però, soprattutto, però, no? Sì, dietro soprattutto, come dietro perché comunque la squadra gioca, ma se tu giochi e stai alto con la linea difensiva, quindi nella metà campo avversario, devi cercare giocatori importanti dietro che limitano gli errori, secondo me. Non è proponibile però in questo momento un paragone, un parallelo tra l'Inter e la Juventus, però. Assolutamente. La distanza assolutamente è abissale. Cioè, vorrebbe dire colmare una trentina di punti in un'estate. Sì, ma Mancini, scusate, ma che deve dire? Mancini chiaramente, innanzitutto è abituato a competere. Però, la stessa domanda l'abbiamo fatta su Garcia, e oggi Garcia ci dice onestamente: io sbagliai allora ad alzare l'asticella così. Sì, la Roma è una involuzione offensiva tecnica, la Roma è una diagnosi che si ripete da 15 partite, una squadra che fa grande possesso palla, che va abbastanza a due all'ora, che non perde mai, nel senso che poi in enorme difficoltà non ci va mai, per questo secondo me Fiorentina-Roma è una partita equilibrata, ma dove esattamente come col Feyenoord non è detto poi che la Roma per forza debba uscire, però non vince le partite con le piccole, e se non vince le partite con le piccole secondo me rischi non solo di non arrivare secondo, ma anche di andare in Europa League se continua così, se non si sveglia tempo 2-3 settimane. Insomma, non vedi un parallelismo, Lele, poi ti salutiamo, tra il carico che ha messo all'epoca Garcia, ma io ci metto anche le parole di Berlusconi del 3 gennaio, questa è la rosa, cioè poi tu su rose magari fragili, e in parte lo è quella dell'Inter, rischi di caricare un peso eccessivo, no, non corre questo rischio. Ma secondo me, sai, allora diciamo non corre il rischio, perché lui deve cercare di alzare il tiro, cioè secondo me l'Inter è una squadra ancora in miglioramento, che sta crescendo, si sta rinnovando con una mentalità diversa, cerca di inserire i giocatori, probabilmente qualche acquisto anche fatto in corsa non è giusto, penso a Podolski che lo devi valutare e probabilmente tornerà alla base e lo andrai a rimpiazzare, quindi l'Inter è una squadra in crescita, la Roma è una squadra che secondo me è arrivata quasi al top e non si è rinnovata, né col mercato di gennaio, è arrivata quasi satura e fa fatica adesso a rinnovarsi, e quindi risulta prevedibile, e calando anche un po' di intensità, è una squadra che vive sull'equilibrio nel campionato italiano, fa fatica a mettere sotto anche il Chievo, il Sassuolo, manca Napoli. L'attaccante, dai, secondo me manca l'attaccante, manca il giocatore, rompe questo equilibrio, manca il giocatore, risolve le partite di Roma sono tutte uguali, partita consecutiva da titolare a 38 anni, qualche domanda possiamo la Roma deve cominciare a fare dei cross, deve cominciare a fare avere un piano B, non può pensare di arrivare in porta con la brillantezza, perché non ce l'ha, gli avversari lo sanno, ti chiudono. Gervinho non vive il momento migliore da quando è in Italia, è stanco per la Coppa d'Africa, e poi alla fine le partite si complicano, e spesso, quasi sempre, la Roma ormai non le vince. Ciao Daniele, alla prossima. Ciao Adams. Ciao Daniele Adani, dagli studi di Sky. Sergio da Treviso, vediamo se riusciamo a fare Sergio, prego. Sono io. Eccoci. Volevo parlare del mio presidente, sì. Berlusconi, sì. Perché bravo. Secondo me anche lui, innanzitutto, grande stima, è il mio presidente, vorrei che restasse a vita al Milan, almeno restasse la famiglia Berlusconi, però anche lui secondo me ha delle grosse colpe e sarebbe bene che le riconoscesse, perché stiamo continuando negli ultimi anni a scaricare le colpe sugli allenatori, ma un progetto serio non c'è. E dico una cosa, una volta c'era Berlusconi che voleva Borghi, c'era qualcuno che riusciva a fargli capire che invece era meglio Rijkaard per costruire una grande squadra. Adesso mi sembra che negli ultimi anni continuiamo a comprare figurine, il Ronaldo, il Ronaldinho, giocatori che hanno perso gli stimoli e che non sono adatti per costruire una squadra. Anche adesso continuiamo a comprare punte, mezzi giocatori, perché sì, è un progetto. Che... al Milan mancano fondamentalmente due giocatori, un metronomo centrocampo, Pirlo, che abbiamo regalato, quindi un Verratti attualmente, sì, però non possiamo tornare sempre lì, Pirlo è andato, non torna più, manca un progetto, io credo sia la sintesi esatta. Poi vedremo se questa sera verrà scritto il nuovo capitolo. Abbiamo quasi finito, 10 secondi per fare gli auguri a Federico Mattiello, assolutamente, quello che è successo oggi a Verona, gamba spezzata letteralmente, sicuramente frattura della tibia, si discute molto sull'intervento di Nainggolan, noi in tre parole, diciamo che ci è sembrato comunque sfortuna. Ti posso dire una cosa, io non l'ho visto, cioè, ho visto l'intervento, ho visto soltanto l'immagine quella larga, diciamo, sì, e mi sembra un intervento in due, due che vanno per prendere il pallone, non certo, però non certo per farsi. Vi fermiamo qui, Claudio Schiattone, redazione, Pietro Lacorte, Gianmarco Ferronato in regia, domani dopo il GR delle 14 torniamo, vi lasciamo perché il presidente Berlusconi, Andrew Mercou, ci ha lasciato una chicca, non l'ha mai sentita nessuno questa intercettazione, nessuno. Pronto? Eccomi Giampaolo. Presidente, mi scusi, l'avevo richiamata perché volevo dirle che mi ha chiamato Francesca e mi ha chiesto se poteva portare due amiche molto carine, dice, una giornalista e una brasiliana. Penso di sì, noi siamo messi così come uomini. Tu, io, Capuano, il conduttore di Tutti i Convocati Weekend, che è un collo grosso di Confindustria, Cegenta, uno molto coeso che quando vede la gnocca sbrocca, e poi c'è Pardo, personaggio televisivo che pratica una forma meno evoluta del bunga bunga, cioè tiki-taka, ma va bene lo stesso. Vecchietti che però hanno molto potere. Ricordati Giampi, la pattonza deve girare. Sì, sì, ci divertiremo sicuramente, presidente. A dopo, con i tromboni di Radio 24.